Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi parliamo di paura. Uno stato d'animo strettamente legato all'uomo, alla sua capacità di dominare la realtà e alla volontà di affrontare i suoi pericoli. Fa bene la paura. Serve a esplorare i limiti, a misurarsi con ciò che non si conosce. È il motore che spinge verso nuovi traguardi. Destini incrociati, quest'oggi, parla di uomini che conoscono la paura e la affrontano per difendere degli ideali. Di uomini che ancora non sanno che cos'è, ma che ne comprenderanno il significato dando un senso diverso alla propria vita. Quella di oggi è la storia di tre uomini che intrecciano vite apparentemente lontane. Una storia tutta italiana. Sono le ore 9:10 della mattina del 16 marzo 1978. A Roma non si sente la brezza primaverile. Si deve mettere ancora il soprabito per coprirsi dall'aria fresca. Via Fani è una strada tranquilla, una scorciatoia per chi, da Via Trionfale vicino a Monte Mario, vuole raggiungere le grandi direttrici verso il centro città. L'onorevole Aldo Moro, a bordo di una Fiat 130, seguito da un'auto di scorta, sta andando in Parlamento per discutere la fiducia dell'ennesimo governo Andreotti, il quarto per la precisione. È un appuntamento importante, al quale non arriverà mai. Quello stesso giorno, alla scuola di polizia di Alessandria, un altro uomo sta preparandosi per un appuntamento. È un ragazzo di 19 anni. Si è appena arruolato in polizia, deve fare il giuramento di fedeltà allo Stato. La sua mente è tutta dedicata alla fidanzata, al paese, alla musica leggera e allo sport. Tra poco tornerà a casa, in Sicilia, in licenza. Il suo nome è Carmelo Pecora. Io ho fatto il giuramento ad Alessandria e l'ho fatto pochissimi giorni prima che rapissero Aldo Moro. In Italia ci sono pochi freni, si vive ancora sulla scia della libertà degli anni 60. Ma l'atmosfera è turbata da fatti di cronaca politica, ripetuti attacchi allo Stato da parte di gruppi terroristici. L'Italia è nel mezzo di un passaggio storico. L'onorevole Aldo Moro, a bordo della sua auto, sa che è un momento importantissimo per la vita politica italiana. Da 30 anni la DC governa il paese. Non è infatti ipotizzabile alcuna alternativa, così come la possiamo rilevare oggi nelle principali democrazie. La politica italiana, in qualche modo, è ostaggio dell'influenza dei due grandi blocchi, l'Est e l'Ovest. Nessuno in Italia vuole uscire da un'impasse pericolosa. Nessuno, a parte lui, l'onorevole Moro, e un altro uomo politico, Enrico Berlinguer, che sta dall'altra parte. Insieme stanno provando a trasformare la politica italiana e la società. Il mondo giovanile è ricco di voglia di esprimersi. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria. Cinisi, Palermo. Un paese cresciuto velocemente all'ombra dello scalo palermitano di Punta Raisi. Si discute persino di un suo ampliamento, della terza pista che toglierà a pescatori e contadini un po' di terre, arricchendo speculatori e mafiosi. Un giovane trentenne sta andando come tutti i giorni a lavorare alla radio che ha fondato, Radio Out. Una voce come tante nell'etere italiano di quel 1978. Ma chi si sono deschiaviacche? Ma oggi capita a fare con tutti questi cose? Come che ci dobbiamo fare? Una radio, no? Qual è la mia provincia? Sì, è le Isole Eole, ma andiamo a trovare a queste ferrovie. E che ci vuole? Oggigiorno basta un registratore e un antenino per fare c'è la radio. Ce ne saranno già mille in tutta Italia. A me basta che ci sentono a Cinisi. Da Cinisi, Palermo, a Roma, via Fani. Sono da poco passate le 9 di mattina quando l'auto del leader democristiano viene intercettata da un comando BR, bloccata insieme all'auto della scorta, che viene massacrata con un'azione spietata e precisa, da comando. Muoiono 5 poliziotti, 5 ragazzi se ne vanno con i loro sogni e il loro futuro. Moro viene prelevato e introdotto in un'altra auto. È rapito. L'Italia è sotto shock. La polizia ha subito un duro colpo. Si bloccano tutte le licenze degli agenti. Non torna nessuno a casa, non adesso. Io dovevo partire per la licenza di fine corso e ci sospesero quella licenza proprio perché tutto fu bloccato, perché rapirono il presidente della Democrazia Cristiana e nessuno poté andare. Carmelo Pecora, il giovane poliziotto che sta preparando la borsa per la sua licenza dopo il giuramento, interrompe bruscamente i preparativi e viene catapultato in una Roma sotto la morsa del terrorismo, a caccia dei terroristi. Cercava un lavoro, l'indipendenza, l'ammirazione della divisa. Adesso ha scoperto la paura e non sa darvi un senso. Che volete che ne sappia di politica? Se Enna, la sua città di origine, fosse Berlino, sarebbe al centro dell'Europa. Invece è al centro della Sicilia, una bella differenza. Per lui la politica è lontana. È un ragazzo come tanti. Per lui sono importanti gli amici, le ragazze, il calcio. Io sono nato con Sarti, Burnic, Facchetti, Jair, Guarneri, Picchi, allora era quello. Nel 71 l'Inter vince lo scudetto e penso che divenne interista già allora. Carmelo Pecora è un ragazzo che ha scelto di lavorare a 14 anni. Fa il meccanico, ha amici, affetti a Enna, ma non gli basta. Decide di fare domanda per entrare in polizia, domanda che viene accettata. I momenti che io ho passato da ragazzo, da giovane, sono stati straordinari, spensierati, proprio per la serenità che io avevo. Poi crescendo magari volevo cominciare a guardarmi intorno, a capire che cos'era la vita che ci aspettava anche sotto il punto di vista politico. Cinisi, Palermo. Al contrario di Carmelo, Peppino Impastato ha un'idea precisa del clima politico che si respira nella sua Sicilia. È un clima che porta un giovane a due possibili scelte: uniformarsi alle regole non scritte della mafia o ribellarsi, scegliendo la militanza politica. Si è candidato alle elezioni comunali di Cinisi, spera di cambiare le cose. Si emoziona davanti alla bellezza della sua terra. E allora? Allora invece della lotta politica, coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. In Italia, le nuove generazioni possono sperimentare le mode e trovare una propria identità nel vestire, nella musica. Anche se le mode diventano inevitabilmente simbolo di schieramento politico. A seconda di come vesti, sei definito di destra o di sinistra. All'estero le contraddizioni non sono da meno. Mentre il governo cinese censura Aristotele, un pensatore evidentemente troppo all'avanguardia, sul New York Times si parla senza inibizioni di clonazione umana. Mentre i francesi fanno saltare ordigni nucleari a Mururoa, gli svedesi mettono al bando il CFC dalle bombolette spray per proteggere l'ozono. Al cinema nel 77 spopola La febbre del sabato sera, con un italianissimo sex symbol, John Travolta, e una colonna sonora che travolge. Carmelo Pecora è appena stato arruolato in polizia. Arruolato è un termine appropriato perché quella che si sta svolgendo è una guerra a tutti gli effetti. Prende servizio tutti i giorni nella volante come terzo uomo. L'onorevole Aldo Moro è stato rapito dalle Brigate Rosse, bisogna trovarlo. Nel frattempo alla radio, in televisione, tornano gli echi di altri fatti di sangue in Sicilia. Fatti di mafia. Al momento in cui noi sentivamo questi fatti che succedevano a Palermo, a Catania, diciamo quello che sentivamo dai nostri anziani, dai nostri vecchi era: ma tanto si ammazzano fra di loro. E la cosa scivolava come se a noi non potesse interessare. Per cui questi fatti di mafia, per noi la mafia era altrove. Quello di cui parla Carmelo è un fronte nuovo. Nessuno si era mai immaginato di mettersi contro la mafia, contro i boss. Le morti di cui si sentiva erano tra mafiosi per il controllo del territorio. Peppino Impastato, figlio di mafioso, si è schierato. È apertamente contro quella morsa che soffoca la speranza nella sua Cinisi. Ma nessuno lo ascolta, fino a quando non trova il modo di farsi sentire. Non lo conoscevo a fondo, però sapevo che a Palermo c'erano delle persone che stavano lottando contro la mafia, che avevano creato queste radio private. Nel 1978 le radio private sono un fenomeno di libertà. Gestite da ragazzi giovanissimi, ventenni o trentenni, e sfruttando una legislazione inadeguata a regolamentare l'emissione radiofonica privata locale, le radio nascono come funghi. Nelle case, nelle cantine, nei garage. Basta un microfono, un mixer, due giradischi e un'antenna, pochi soldi e si conquista la libertà di esprimersi da nord a sud. Una voce nuova legata al territorio per rompere il monopolio della musica, dell'informazione, delle idee. Piace anche di più perché libera la mente. Peppino Impastato ha le sue idee politiche, di sinistra, è vero. La contrapposizione politica di allora etichetta facilmente come rivoluzionario un giovane che ha trovato un modo per essere se stesso e ribellarsi contro il limite della sua libertà, che non si chiama Stato come dappertutto, si chiama mafia. A Cinisi il padrino è Don Tano Badalamenti. Don Tano non sopporta più quel ragazzo intelligente e magrolino che insieme ai suoi compagni lo sfotte tutti i santi giorni da Radio Out. L'ha chiamata così, Out, con la A. La sua casa è a 100 passi da quella del boss. Per un mafioso lo sfottò è la peggiore delle infamie. Peppino lo sa che sta rischiando la vita. Anche lui ha paura. E se invece tu, Peppino, vuoi continuare ad odiarmi? Per me va bene uguale, perché tanto meschino che sei tu a Tano, ci fai soltanto ridere, i tuoi insulti non ci arrivano. Perché tu non esisti, tu non ci sei, tu sei nudo, mascato con niente. E nemmeno paura deve avere, perché ci sarà Tano a proteggerti. Perché Tano, soltanto Tano, che ti dà il permesso di continuare a ragliare come i cavalli, come i sciecchi. È un brano tratto da I 100 passi, il film di Marco Tullio Giordana realizzato nel 2000, 22 anni dopo la scomparsa di Peppino Impastato. Un bellissimo film interpretato da un grande Luigi Locascio, che ha riportato alla memoria la storia di Peppino, oscurata dalle cronache di un avvenimento più grande di lui, della Sicilia, più grande della mafia, il rapimento di Aldo Moro a Roma. Ed è lì che torniamo immediatamente. Tra il marzo e il maggio del 1978, Carmelo Pecora è aggregato alla volante, in affiancamento al capo pattuglia. Sono poche settimane nelle quali impara a sopravvivere e che valgono anni di scuola di addestramento. In quelle settimane la priorità è rintracciare il nascondiglio dove l'onorevole Moro viene tenuto prigioniero dalle Brigate Rosse. E per un ragazzo di 19 anni, essere nella capitale a fare quel servizio lì, che è il servizio che ogni poliziotto giovane aspira a fare, quello di andare su una volante ed essere a disposizione dei cittadini, di correre il loro aiuto, ma si correva anche perché c'era la rapina in banca, la rapina in posta, il correre con l'auto di servizio, con la sirena accesa, con il lampeggiante, sicuramente sono scariche di adrenalina che difficilmente si dimenticano. Pecora corre in lungo e in largo per Roma. Ora la segnalazione di un possibile covo, ora una rapina. C'è la banda della Magliana che imperversa. Ci sono i terroristi. Fare il poliziotto è veramente difficile. Un giubbotto antiproiettile che pesa 20 kg è un impedimento, non una sicurezza. Ancora non sono in dotazione mitragliatori efficienti. Insomma, la lotta è impari e l'agguato di Via Fani lo ha ampiamente dimostrato. Carmelo Pecora dissimula sicurezza nei confronti della famiglia, non li vuole preoccupare. Li chiama con un telefono a gettoni sotto la centrale di polizia. Intanto le lettere di Moro dalla prigionia, non si sa se dettate o autentiche, mettono la DC a dura prova. La linea della fermezza, e cioè quella di non legittimare i terroristi aprendo una trattativa, mostra i primi cedimenti. I terroristi hanno espresso la loro condanna a morte e la comunicano con folle lucidità, senza alcuna esitazione, al telefono, alla famiglia. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome sono stati zitti, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle. L'aria in quei giorni è pesante. La gente va a lavorare fissando il vuoto, si aspetta. Lo Stato non può cedere in questo momento. Ha scelto la linea della fermezza, quella di non riconoscere i terroristi come interlocutori. Non può cedere, anche se c'è di mezzo la vita di un uomo di Stato, di un amico, di un compagno di mille battaglie. Quello davanti a Maficini. Il grande capo Tano seduto, grande capo di Mafiopoli. Nello stesso momento, a Cinisi, Palermo, Peppino, dalla sua radio, continua a denunciare le ingiustizie e i soprusi di Tano Badalamenti. Tano seduto, come lo ha soprannominato. È la goccia che fa traboccare il vaso. Don Tano è stufo. Bisogna prendere provvedimenti. Tra i destini di questi uomini così distanti tra loro, Aldo Moro e Peppino Impastato, Carmelo Pecora sente nascere la sua consapevolezza. La sua condizione di poliziotto diventa una scelta di campo. Li hanno battezzati gli anni di piombo. Ma l'Italia, un po' americana e un po' paesana, ha voglia di cantare la leggerezza. Come West Berlin, incrociati. A Destini Incrociati, un signor nessuno, Carmelo Pecora, vive a soli 19 anni un giorno che gli resterà impresso per sempre nella memoria. Un giorno che lo segnerà come uomo e che gli farà capire il significato di quella paura che è nata in lui, incomprensibile, per un giovane che pensava che la divisa significasse uno stipendio, il rispetto, la felicità. Carmelo presta servizio nella Roma dove è tenuto prigioniero dalle Brigate Rosse Aldo Moro. A 1000 chilometri di distanza, un altro ragazzo, Peppino Impastato, siciliano come lui, combatte la sua battaglia contro la mafia. Carmelo è dalla parte giusta, fa il poliziotto. E il 9 maggio, Carmelo è a casa, finalmente ha trascorso 4 giorni a Enna in famiglia, insieme a genitori e parenti. Dopo tante pattuglie a Roma a caccia di terroristi, gli hanno dato una piccola licenza per salutare i suoi. In Sicilia, soprattutto nelle città legate all'agricoltura come Enna, la famiglia è ancora quel rifugio accogliente e allargato che vede i vecchi in cima alla gerarchia del rispetto. Vecchi che danno consigli, che proteggono. In quei 4 giorni, Carmelo ha consumato i riti dell'ospitalità familiare. I piatti della tradizione, la salsiccia con i semi di finocchio, le visite dei parenti lontani. Sono le 5 del mattino e Carmelo è già sveglio. Lo è anche la madre, il padre e la sorella. Sono tutti con lui a consumare la colazione prima che il giovane 19enne parta per Roma, dove lo aspetta il turno pomeridiano di servizio. Prenderà l'aereo, ha un impegno. Lui pensa che sia con il lavoro. Sarà invece l'appuntamento della sua vita. Alla radio, il primo notiziario riporta la notizia di un attentato in Sicilia cui Carmelo non dà peso. Avevo sentito che c'era stato questo attentato, che era un attentato poi procurato da uno che si diceva forse terrorista, ancora c'erano notizie vaghe, era successo durante la notte, per cui le notizie erano... era successo qualcosa a Palermo. Però io era tanta l'ansia che avevo per andare via, che era una notizia che poi rimase lì, insomma, non approfondì affatto, insomma. A Palermo è successo qualcosa, una notizia come le altre, un attentato. Un terrorista era esploso con il suo carico di tritolo sulle rotaie della ferrovia. Almeno così i primi riporti dal luogo dell'incidente. Il terrorista si chiama Peppino Impastato e la sua radio auto, come nel film I 100 passi, annuncia la notizia. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Questo leggerete domani sui giornali. Anzi, non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante, del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte di questo Peppino Impastato? A Enna radio auto non si riceve. Carmelo, il poliziotto, deve partire. Il padre ha la Simca 1000, vecchia di 10 anni, pronta con la valigia caricata sul sedile posteriore. La vecchia Simca deve fare 90 chilometri fino all'aeroporto di Catania. La prima volta di Carmelo con l'aereo. Prendevo per la prima volta l'aereo, per cui la paura che dentro di me... non era quella di fare il poliziotto in quel momento, la mia paura era quella di prendere un aereo, perché già c'era stata Montagna Longa negli anni precedenti, gli aerei che cadevano, gli attentati. Carmelo arriva a Roma sano e salvo. Il tempo di lasciare il bagaglio in caserma e prende servizio. Non aspetta il cambio, non c'è tempo. Lo mandano subito in via Caetani. È arrivata una segnalazione telefonica e bisogna correre sul posto. Pronto? E chi parla? Indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Sono passati tanti anni e queste testimonianze risuonano come un film, non sembrano più appartenere alla realtà. Eppure è tutto tremendamente reale. La natura umana rimuove ciò che turba e che rappresenta un pericolo. Un poliziotto non può farlo, anche se ha paura. La quotidianità è come un'enorme pialla, banalizza gli avvenimenti, li fa diventare cronaca, anche quando sono storia. E noi vogliamo respirare l'aria di quel 9 maggio a Roma. La storia è già stata scritta. La cronaca, tra una canzoncina e l'altra, un caffè, il giornale, la telefonata a casa per dire che tutto è a posto, fa parte dei ricordi di Carmelo Pecora, che a inizio turno ha una chiamata per via Caetani, dove è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro. Non eravamo i primi ad arrivare sul posto, perché i primi sono stati sicuramente Digos, la Digos all'epoca era l'ufficio politico, tutti quelli dei servizi segreti, c'era gente che si accalcava, noi dovevamo arrivare lì e cercare di limitare queste persone, di non farle oltrepassare quelle transenne che già si stavano preparando per far sì che l'auto venisse isolata. Carmelo adesso ha tanti pensieri in testa, è confuso. Passerà una delle più spossanti giornate da quando è in polizia. Deve tenere la gente lontana, ma la gente è dappertutto. L'ordine è tassativo, nessuna fotografia. Ma via Caetani assomiglia alla piazza di un paese il giorno del santo patrono. Io poi negli anni, rivedendo i filmati, mi sono chiesto come tutto questo era stato possibile. Soprattutto essendo poi responsabile della polizia scientifica, il nostro credo era che nessuno doveva arrivare nel luogo dove è stato commesso un reato, figurarsi con gli anni poi ho pensato, ma quanta gente c'era? Sembrava una festa di paese, tanta gente che correva, i vecchietti che volevano passare. Il servizio sfora di 1, 2, 3, 4 ore. A tarda ora rientra in caserma, doccia, crolla. Per Carmelo è una svolta. Aveva scelto la polizia per convenienza, per necessità. Adesso ha scelto la polizia per convinzione. È un mutamento che lo avvicina anche alla narrativa e alla scrittura, come vedremo tra poco. Carmelo sta comprendendo l'importanza di essere un poliziotto. Quella paura che lo ha sorpreso distinto, come un animale in pericolo, è diventata un pensiero coerente nella sua mente. Giustifica un impegno che cambierà per sempre la sua vita. L'impegno in polizia diventerà più consapevole e lo spingerà verso una carriera importante. Ma ancor più il desiderio di comprendere quegli avvenimenti lo porterà a raccontarli. La scrittura diventa così il suo sfogo. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 9 maggio del 1978. Peppino Impastato, giovane ribellatosi alle regole di obbedienza della mafia, viene ucciso con una carica esplosiva sulle rotaie della ferrovia, simulando un fallito attentato terroristico. Peppino denunciava la mafia nel suo paese, Cinisi, governato da Don Tano Badalamenti. Un boss le cui responsabilità saranno accertate più di 20 anni dopo. Una morte che non troverà spazio sui giornali, oscurata dalla restituzione della salma dell'onorevole Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse dopo più di 50 giorni di prigionia. In mezzo a questi avvenimenti storici, un uomo qualunque, Carmelo Pecora, compie le scelte della sua vita. È stravolto Carmelo. Dopo una giornata assurda passata in via Caetani a tenere a bada la folla, ad accompagnare la salma in obitorio a sirene spiegate, ha sforato il servizio di diverse ore. Adesso è in caserma, sfinito, sotto la doccia. A cosa pensa Carmelo? La prima cosa che mi venne in mente era dell'aver assistito a qualcosa di più grande di me. Pensavo ai miei genitori però, che avevano visto in televisione tutto quello che era successo, forse senza sapere che io ero lì in mezzo. La vita di Carmelo prende subito una svolta. Si impegna in polizia per crescere nella carriera e assumere sempre più incarichi importanti. Riesce persino a tornare a Enna, dovrebbe essere un premio, ma dopo 5 anni capisce che un poliziotto non può lavorare nella sua città, troppi condizionamenti. E Carmelo il suo mestiere lo vuole fare bene. Infine, la specializzazione. Assume il comando della polizia scientifica di Forlì. Nel frattempo, si documenta su quel 9 maggio. Torna con le sue ricerche alla vicenda di Peppino Impastato, il suo conterraneo che a soli 30 anni non ha avuto paura di affrontare la morte per gli ideali in cui credeva. La coincidenza con quanto successo in via Caetani lo porta a un'elaborazione ulteriore. deve fare qualcosa per evidenziare il legame tra quei due uomini, Aldo Moro, lo statista, e Peppino, il ribelle, che erano morti lo stesso giorno per un ideale. Inizia così a scrivere il libro della sua storia. Io avevo già conosciuto la figura di Peppino in passato, negli anni, e allora ho voluto rendere omaggio a una figura come Peppino che, secondo me, per me siciliano, era da prendere come esempio. E questa è stata la motivazione più forte a spingermi a scrivere questo parallelismo fra due personaggi che effettivamente non avevano quasi niente in comune, se non il fatto che credevano nelle loro idee. Carmelo scrive 9 maggio 78, che esce nel 2007 per Zona. È un libro semplice, autobiografico e al contempo intenso, fotografico. Tant'è che è stato oggetto anche di una riduzione teatrale. Un libro che ripercorre parallelamente le tre vicende, così come abbiamo fatto noi. Ha teso un filo tra due vite lontane e in questo modo ha trovato il filo della propria esistenza. A capo della polizia scientifica di Forlì è arrivato alle soglie della pensione. Ha voluto indirizzarsi verso il rigore, il metodo, la tecnica scientifica, quasi per affrontare meglio quella paura che è riuscito a riconoscere e a darle un significato preciso. La paura è quel sentimento che ti permette di stare sempre attento, di non essere mai sicuro che tutto è scontato. Carmelo mette tra sé la paura, la logica e la tecnica, senza perdere mai la passione per la verità e il servizio per gli altri. In più, la voglia di raccontare, la passione per la scrittura. Lo ispirano dei valori forti. Innanzitutto il rispetto per gli altri, il rispetto per i diversi e il rispetto per le persone più deboli. Questa è una cosa che ho sempre insegnato ai miei figli e vorrei che i ragazzi imparassero. La vicenda di Aldo Moro, Peppino Impastato e Carmelo Pecora ci suggerisce l'esistenza di un filo invisibile che unisce la lotta al terrorismo con quella alla mafia. Un filo che è già stato tessuto da un altro uomo che quell'anno, proprio a seguito dei fatti tragici di cui abbiamo parlato, si trova in prima linea nella battaglia. La sua professione? Generale. Ci sono cose che non si possono fare per coraggio. Si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. C'è troppa gente onesta, tanta gente qualunque, che ha fiducia in me. Non posso deluderla. Sono le parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nell'agosto del 1978 viene nominato coordinatore delle forze di polizia e degli agenti informativi per la lotta contro il terrorismo, sorta di reparto operativo speciale alle dirette dipendenze del ministro dell'Interno, creato con particolare riferimento alla lotta alle Brigate Rosse e alla ricerca degli assassini di Aldo Moro. Il generale Dalla Chiesa andrà poi a Palermo a cercare di fare il suo dovere, non per coraggio, come dice lui, ma per le proprie convinzioni, per servire lo Stato. La sua vita, tra lotta al terrorismo e alla mafia, sottolinea il legame stretto tra quelle vicende così apparentemente lontane. Anche il generale Dalla Chiesa darà la vita per servire lo Stato insieme alla moglie, ma questa è un'altra storia. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno. Solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.